Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata e benvenuti. In regia, la parte tecnica, oggi abbiamo Carmelo Lauricella, mentre in redazione sempre Laura Vanossi. Andiamo a sentire insieme i titoli del nostro sommario. Ti piace fare sport, ma l'attività fisica ti dà qualche problema? Parlane con noi. Fibrosi cistica, la ricerca continua. Succo d'uva, amico del cuore. È vero, non c'è rosa senza spine, non c'è sport che non dia piccoli problemi. Oggi parliamo degli sportivi amatoriali, di persone quindi che amano fare sport, lo fanno per sentirsi e per stare bene, ma ci sono dei piccolissimi a volte incidenti di percorso. Ad esempio, nonostante ci si imponga di seguire un programma preciso, non si vedono dei miglioramenti. Oppure si inizia a sentire qualche dolorino qua e là che mette in discussione i nostri allenamenti, magari riesce, ci costringe proprio ad uno stop, ma noi non ci arrendiamo, perché oggi, come tutti i venerdì, è venuto a trovarci il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovato. Trovati tutti. È bello pimpantino oggi? Abbastanza in forma, perché sì. Qua c'è da lavorare. Intanto inizio a dire ai nostri ascoltatori da casa che il nostro numero verde è a vostra disposizione, quindi se siete sportivi, amatoriali, se tali vi sentite, 824 0024. Basta non essere amici della poltrona, insomma. Prendiamo tutti, vero? Tutti. Da anche quelli il nostro che si amico allenano della poltrona. Per migliorare, raggiungere dei risultati più o meno importanti, da quelli che lo fanno per stare meglio e però non hanno ancora ottenuto quanto si erano prefissati. I messaggi al 349-238-6666. L'idea di questa puntata ci è venuta perché nei giorni scorsi abbiamo ricevuto in redazione diverse mail che ci chiedevano proprio dei consigli in questo senso, e noi abbiamo pensato che invece che girarle tutte al dottor Confalonieri, che prontamente ci avrebbe risposto, di farne diventare due protagoniste della nostra trasmissione. Inizierei ad ascoltare la prima. Carmelo, andiamo. Buongiorno, sono Gaspare, un podista amatore di 40 anni e corro abitualmente 3-4 volte alla settimana ormai da 5 anni. Mi sto allenando per la stagione autunno-inverno e per la prima volta mi sto impegnando a fondo con allenamenti intensi e prolungati. Purtroppo da un paio di settimane ho grandi difficoltà nel seguire i programmi di allenamento che mi sono creato. Mi sento molto stanco e affaticato, dormo male e i battiti cardiaci sono più alti del normale anche quando sono a riposo. Ho provato a prendere vari integratori, ma senza risultato. Il medico mi ha prescritto degli esami e ha escluso ogni forma patologica preoccupante, mononucleosi o simili. Non so cosa fare, proprio adesso che ero nel pieno degli allenamenti. Caro dottor Confalonieri, sì. Iniziamo a rispondere a Gaspare, che introduce un tema molto interessante. Sì, diciamo che introduce una delle due grandi tematiche che vorremmo affrontare oggi. Faccio sport con obiettivi più o meno importanti e difficili da raggiungere e non vedo risultati, non vedo miglioramenti, anzi, piuttosto che stare meglio, sto peggio. Direi che qua il problema probabilmente è un sovrallenamento legato a un'impostazione degli allenamenti scorretta. Non a caso Gaspare dice gli allenamenti che mi sono preparato. Ecco, non è la scelta, non è la scelta migliore, mi sono questa preparato. Il più delle volte. Ecco. E quindi probabilmente è andato in sovrallenamento, magari poi torneremo anche, daremo delle risposte più precise a Gaspare più avanti, perché questo è uno dei grandi problemi che vorremmo affrontare oggi. L'altro sono invece i dolori che compaiono allenandoci, problematiche a livello ortopedico, problematiche a livello osseo, a livello muscolare, a livello articolare, per cui partiamo pieni di entusiasmo e siamo costretti a fermarci. Quindi vorremmo proprio che gli ascoltatori ci telefonassero, ci scrivessero per raccontarci il loro rapporto difficile con lo sport, e noi magari lavoriamo per migliorarlo un po'. Quanto è bravo. 824 0024, questo è il nostro numero verde. Tra l'altro a Gaspare, per Gaspare abbiamo, e per chi si ritrova più o meno nella situazione del nostro amico, abbiamo invitato un grande campione, dottor Confalonieri, non per rubare la scena, ma insomma non voglio dire altro, ma voglio leggere un messaggio che ci arriva da Federico e ci scrive: vado in palestra, cardio fitness più pesi da 2 mesi, non dimagrisco né metto muscoli. Ecco, questo è un messaggio che capita a proposito, perché è l'altro grande problema. Tantissimi fanno lo sport con l'obiettivo fondamentale di diventare più belli e di stare meglio nella propria pelle o di stare meglio nel proprio corpo, e non vedono i risultati. Qualche consiglio immediato, poi magari torneremo anche su questo tema. Innanzitutto, anche qua, il programma deve essere orientato alla perdita di peso. Non è automatico fare sport e perdere peso. Deve essere comunque abbinato a uno schema dietetico, perché lo sport di per sé difficilmente, se in una primissima fase, comporta la perdita di peso. E l'incremento della massa muscolare è legato ad allenamenti, a programmi di allenamento, ad esercitazioni profondamente diverse dalle esercitazioni che comportano la perdita di peso. Quindi partire con le idee chiare. Faccio sport per perdere peso, devo seguire certi programmi. Faccio sport per aumentare la massa muscolare, devo seguirli completamente diversi. Questo in particolare in palestra. Quindi probabilmente anche il nostro ascoltatore che ci ha scritto non aveva le idee chiarissime. Ma lui può prima perdere peso e poi aumentare la massa? Questa perché sarebbe la strada ideale. Vede che a forza di frequentare il dottor Franco Confalonieri qualche idea mi si accende. 824 0024, questo ve l'ho detto. Vi abbiamo poi preparato un altro caso di un ascoltatore sempre che ci ha scritto, con un problema che riguarda il dolore alla testa. Lo affronteremo nel corso della trasmissione con tutti i vari dolorini che vorrete raccontarci, chiamandoci al nostro numero verde. Una mela al giorno. Parliamo di fibrosi cistica, è ancora oggi la malattia genetica grave più diffusa in Italia, una malattia al momento ancora inguaribile che, grazie ai recenti progressi della scienza, sui quali ha avuto anche un ruolo significativo la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, consente a chi ne è affetto un tempo di vita superiore, quindi un'età media intorno ai 40 anni. Anche la qualità della vita è migliorata, ma rimane pur sempre un'esistenza drammaticamente segnata da continui ricoveri ospedalieri. In linea con noi per parlarne abbiamo la dottoressa Graziella Borgo, pediatra genetista presso la Fondazione Italiana Ricerca Fibrosi Cistica. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a chi ci ascolta. Dottoressa Borgo, lo screening neonatale in atto in quasi tutte le regioni italiane ha sicuramente cambiato la storia della fibrosi cistica, perché ha dato modo di intervenire subito con terapie mirate. Questo credo che abbia rappresentato una svolta, faccia la differenza. Questo ha rappresentato la svolta fondamentale, perché la precocità delle cure permette di fermare la malattia, permette di far sì che questi bambini crescano bene. Sono bambini che sono bellissimi, che almeno fino ad una certa età nessuno distinguerebbe da altri. Sono persone che vanno a scuola, studiano, si cercano un lavoro, se possono si fanno una famiglia. Forse vale la pena di spiegare che cosa si misurano questi bambini con questa malattia che non ha volto e però segna pesantemente la qualità della loro vita, ricoveri, cure quotidiane costante, un'applicazione. E poi questi bambini, ed è un risultato della ricerca, diventano anche grandi. Prima questo non era possibile, dottoressa. Certamente questa è una malattia grave, non possiamo nascondercelo, è una malattia cronica, è una malattia faticosa. Lei pensi che un adulto con questa malattia deve dedicare alle cure almeno un paio di ore al giorno, tra fisioterapia, aerosol, antibiotici. Però è una malattia con cui oggi si può vivere, e anche la qualità della vita sta per certi versi prendendo punti. È una malattia con cui si vive, mentre una volta era una malattia che purtroppo faceva perdere i bambini in età pediatrica. Perché che cosa capita a un bambino affetto da fibrosi cistica, dottoressa? Ha disturbi respiratori, tosse, catarro, ha disturbi intestinali, diarrea, non cresce. E quindi se viene diagnosticato attraverso questo screening neonatale, di cui purtroppo c'è da dire che le mamme non sono avvisate e invece dovrebbero esserlo, noi possiamo arrivare a sapere presto se c'è o non c'è la malattia. E quindi questo può permettere di indirizzare cure adeguate. Certo. Senta, dottoressa, si può essere portatori di sani di fibrosi cistica? Questo non vuol dire essere malati, né che ci sia il rischio di sviluppare la malattia, no. Vorrei chiarirlo, ma che si potrebbe trasmettere. Con quante probabilità? Allora, il portatore è un individuo sano, questo dobbiamo dirlo per non creare allarmismi. Sì. È un individuo che ha nel proprio genotipo, nel proprio corredo genetico, una sola mutazione di questo gene, il gene CFTR. Se per caso c'è un portatore sano, ogni 25 persone circa. Quindi in una classe di bambini, proviamo a visualizzarla, potrebbe certo. esserci per ogni classe un portatore sano. Certo, questo per certo. quantificare un po', per visualizzare la cosa, perché tante volte i numeri ci sfuggono. Dottoressa. Certo, lei ha ragione. Ora, questo portatore non potrebbe anche non venire a sapere mai di essere portatore, appunto perché non ha nessun sintomo. Certo. Però il caso può mettere sulla sua strada un'altra portatrice. E la coppia fatta di due portatori, e solo la coppia fatta di due portatori, ha ad ogni gravidanza un rischio del 25% di avere un bambino malato. Certo. Senta, dottoressa, alla luce di quanto lei ci ha detto, lei quale cosa consigliate? Allora noi diciamo, siccome oggi c'è un test, che è un test genetico, che può identificare la presenza della mutazione genetica, nelle famiglie in cui si è verificato un caso di malattia è indispensabile che i parenti sì. diretti, i nonni, i zii, i cugini, si rivolgano ai centri in cui sono in cura i bambini o gli adulti con questa malattia e chiedano di fare il test per sapere se sono portatori, perché questi parenti hanno più rischio di altri di essere portatori. Invece, per la popolazione generale, in cui il test genetico ha degli aspetti di maggiore complessità, cercare nella propria città il centro di consulenza genetica, che è il posto dove c'è una persona addetta, specializzata a dare informazioni. Certo. Può essere il genetista, può essere anche un'infermiera specializzata. Per chiedere informazioni sul test genetico per la fibrosi cistica. Potete andare sul sito della fibrosi, www.fibrosicisticaricerca.it, dottoressa, dove voi date delle informazioni precise, vero? Certo, abbiamo anzi l'orgoglio di poter dire che abbiamo una parte scientifica molto ricca, a cui scritta però in maniera divulgativa. In modo da essere accessibile appunto ed essere disponibile sul piano informativo alla persona qualsiasi che voglia saperne. Questo è importante, dottoressa. Tra l'altro la prossima settimana è una settimana importante per la fibrosi cistica, quindi io invito i nostri ascoltatori questa ad andare settimana, questa settimana, dal 13 al 19 ottobre. La Fondazione ha organizzato la Settimana Nazionale per la Ricerca Italiana SC. È una ricerca. Quindi la ricerca, tra l'altro, ha lavorato, i risultati si vedono, da malattia pediatrica, mi corregga se sbaglio, adesso è una malattia che può essere degli adulti, e quindi questo è già, hanno allungato la vita di questi malati. Contribuiamo anche noi, investendo nella ricerca, a dare non solo anni alla vita, ma qualità di vita a questi anni. Grazie, dottoressa, io la ringrazio davvero per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Ricordo il sito fibrosicisticaricerca.it. Buona giornata. Pronto soccorso. E adesso riprendiamo il tema del giorno. Ormai ci siamo un po' abituati, al venerdì parliamo di attività fisica, parliamo di sport. Oggi siamo partiti però da una lettera. Noi tutte le volte si dice, lo leggiamo e lo ripetiamo, l'attività fisica fa bene, deve essere regolare e costante, ma a volte ci sono dei piccoli incidenti di percorso. Oggi ci dedichiamo proprio a questo. Il primo caso che abbiamo preso in esame è stato del nostro amico Gaspare, un podista amatore di 40 anni che corre abitualmente 3-4 volte alla settimana, ormai da 5 anni. anni, ma adesso, proprio in questo momento che sta allenandosi con allenamenti intensi e prolungati, beh, qualche cosa non va per il verso giusto. Il battito diventa più alto del normale, lui si sente stanco, affaticato, è andato dal suo medico, niente di grave, però insomma lui è un po' preoccupato e ci ha scritto e ha fatto bene, perché per Gaspare, io ho un grandissimo campione, per i nostri ascoltatori vogliamo il meglio, e infatti io ho Stefano Baldini in linea con noi. Stefano, grazie, ciao. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Non capita tutti i giorni di farsi dare dei consigli da un campione come te. Gaspare, devo dire, fortunato, ma noi, Stefano, partiamo dal caso di Gaspare per dare dei consigli a tutti coloro, e sono tanti, che si allenano da questi sportivi amatoriali, che corrono seriamente, con impegno e con grande soddisfazione. Secondo te il nostro Gaspare sta sbagliando qualcosa? Ma immagino che sicuramente sarà una persona che lavora e quindi che è abbastanza impegnata durante la giornata, e per questo motivo 4 sedute settimanali sono, direi, più che sufficienti. Probabilmente lui in questo periodo, che mi sembra di capire sia di allenamenti intensi e prolungati, come è scritto, credo che stia un po' esagerando, nel senso che comunque la parola d'ordine per chi corre è come sempre gradualità. Probabilmente lui, per migliorare le sue prestazioni, sta cercando di forzare un po' durante gli allenamenti, andando anche al di sopra di quella che è probabilmente la soglia delle sue possibilità, e per questo motivo fatica molto di più a recuperare gli allenamenti e ha questa sensazione di affaticamento e stanchezza quotidiana. Quindi non bisogna mai esagerare, Stefano, ma scusa, ma come fa una persona che si allena 3 o 4 volte alla settimana a capire che sta tirando troppo la corda, cioè che il suo allenamento è al di sopra della sua possibilità e soprattutto non è funzionale alla sua preparazione? Ma rischia di essere un po' come un elastico che lo tiri troppo e poi si rompe. Sì, queste situazioni, come quelle che insomma sta provando Gaspare in questo momento, ti dicono già che tu stai facendo probabilmente più di quello che ti è consentito. E poi, insomma, naturalmente per me chi si allena 3-4 volte alla settimana e non ha delle velleità agonistiche, sì, l'importante è che corra sempre diciamo con questo spirito, con un impegno che ti possa permettere una tranquilla conversazione. Ecco, quella è quella soglia di 130-140 pulsazioni cardiache al minuto che ti dà la possibilità di essere in buon allenamento, ma anche di poter controllare un po' l'eventuale sovraffaticamento. Chissà quanti vorrebbero poter chiacchierare correndo con te. Io, guarda, posso chiacchierare solo se sto seduta per dare consigli a chi corre, ma tanto possiamo approfittare di te anche stando seduti, ma comunque il consiglio di un campione: tenete l'andatura tale da permettervi di chiacchierare con il vostro compagno di corsa. Questo va bene per tutti i livelli amatoriali, naturalmente. Va bene per tutti i livelli amatoriali, naturalmente. Chiaramente, quando poi si parla di agonismo e agonismo ad un certo livello, poi tutto questo svanisce, perché soltanto una parte dell'allenamento viene fatta con l'intensità. Poi quando si cronometra veramente non si parla più. Non si parla più. Stefano, io ti ringrazio per essere stato con noi, per aver aiutato Gaspare. Sicuramente sarà molto contento e onorato. Grazie Stefano, un abbraccio. Grazie a voi, a presto. Buona giornata. Grazie altrettanto. E invece, dottore, dopo i consigli tecnici di Baldini non si può aggiungere null'altro. Tocca dare qualche consiglio medico. Sì, direi che dal punto di vista tecnico sono state dette le cose molto molto importanti. Dal punto di vista medico direi: attenzione, se ci alleniamo soprattutto per costruirci un benessere maggiore, quindi seguiamo le indicazioni di Baldini, allenamenti sempre come limite di intensità, la possibilità di conversare, qualsiasi integratore è mediamente inutile. Quindi possiamo farne a meno, rischiano di provocarci più danni ed effetti collaterali che non vantaggi. Stiamo invece molto attenti all'alimentazione, quindi ricordiamoci di allenarci sempre ben alimentati, avendo fatto un pasto a base di carboidrati non più di 2 o 3 ore prima dell'allenamento, perché il rischio di fare un allenamento anche poco intenso in carenza di carboidrati è molto importante nel determinare un sovrallenamento. E poi ricordiamoci anche di fare un adeguato stretching, un adeguato allungamento muscolare prima, per evitare problematiche a livello articolare o muscolare. Ma noi parleremo anche di queste, naturalmente, di tutti i piccoli e grandi problemi, come penso ne avrà magari uno piccolo, Guerrino, che ci chiama da Padova, 824 0024. Buongiorno a lei. Buongiorno. Noi siamo qua. Posso esporre il mio problema? Ma volentieri, anzi, la ringrazio. Grazie a voi. Niente, c'ho mio figlio che ha 20 anni, no? E purtroppo è da un paio d'anni che ha problemi sulla coscia destra, soprattutto, diciamo, che mentre lui si allena regolarmente due volte, fa la preparazione, fa due volte la settimana con l'allenatore, sempre fa uno sport, diciamo, sì, agonistico, ma dilettante, dilettantistico, e gli si induriscono i muscoli, soprattutto la coscia qua davanti, diciamo, no? Ecco, e deve fermarsi perché gli dà fastidio, diciamo. Ecco, è un po' fastidioso. L'allenatore non dice nulla, Guerrino. Non l'ho portato da una parte, dicono che sia un problema di postura, dicono che sia un problema, può essere di alimentazione, come sentivo prima da voi, oppure ho sentito dire anche uno che deve bere molto, perché sa che cosa? Che magari lui dà tutto in partita, perché per esempio domenica lui stava benissimo, ha dato tutto, è venuto fuori che era distrutto, ha fatto una bellissima partita, però il martedì è andato ad allenarsi e gli faceva già male un po'. Uno sportivo troppo generoso, dottor Confalonieri. Mettiamola così, Guerrino, sentiamo il nostro medico cosa dice. Beh, diciamo che anche se a distanza non è facilissimo dare dei consigli, il primo che posso dargli è: se in partita tende a dare veramente tutto, sarebbe utile che al termine della partita facesse 10-12 minuti di defaticamento molto tranquillo, perché questo facilita indubbiamente il recupero nei due giorni successivi. Rispetto al problema specifico a livello della coscia e quindi del quadricipite femorale, ritengo che la causa più probabile sia un problema di postura, come qualcuno accennava, quindi o un problema di appoggio e di utilizzo dei piedi, o più facilmente un problema a livello della colonna. Chi può aiutare? Quindi una mancanza di equilibrio proprio a livello della colonna, che si traduce in una ridotta efficienza a livello del quadricipite femorale. Quindi dovrebbe rivolgersi da questo punto di vista o a un ortopedico specialista o eventualmente ad un osteopata che hanno le competenze per aiutarlo. Siamo tornati, adesso andiamo a sentire le novità che arrivano dal mondo della ricerca. Quelle di oggi sono commentate per noi dal professor Giuseppe Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. GR Salute. Vi sentite perduti appena fuori casa? Non siete i soli. Cercatori canadesi hanno visto un paziente che, pur non avendo alcun danno al cervello e nemmeno nessun altro disturbo cognitivo, è incapace di orientarsi in qualunque ambiente. Secondo i ricercatori, persone così non sono poi così rare. Il problema è che l'orientarsi è un lavoro complesso per il nostro cervello, coinvolge parti dedicate alla memoria, parti dedicate all'attenzione, alla percezione e alla capacità di prendere delle decisioni. La particolarità di questo ammalato sta nel fatto che il suo cervello è intatto e che la sua incapacità di ritrovare la strada di casa riguarda solo un aspetto specifico dell'orientamento e nessuna delle altre facoltà cognitive e intellettuali. Se un bicchiere di vino al giorno fa bene al cuore, come si deve comportare un astemio che non berrebbe nemmeno quel bicchiere? Quali altre bevande vanno bene per le persone astemie? Basta il succo d'uva prima della fermentazione, che lo trasforma in una bevanda alcolica. Il succo d'uva ha alcune delle proprietà del vino. I benefici di questa bevanda, infatti, non sono dovuti soltanto all'alcol, che ha un effetto di vasodilatazione, ma soprattutto, per quanto riguarda la protezione dall'infarto, ai flavonoidi e al resveratrolo. Sono delle sostanze antiossidanti che si trovano nel vino, ma anche nel succo d'uva. Questo è frutto di un esperimento condotto da ricercatori dell'Università del Wisconsin. Ed è arrivato il momento di sentire la seconda mail, che ci introduce ad un altro piccolo problema. Sentiamo. Mi piace fare sport, però alcune volte ho un problema. Soffro di emicrania e tra i tanti fattori scatenanti c'è proprio l'attività sportiva. Quando faccio ginnastica, se eccedo nello sforzo, in intensità e durata, dopo qualche ora mi viene l'emicrania. Non so in realtà se sia lo sforzo, l'alimentazione o cos'altro, ma so che avviene. Ora mi chiedo, l'unica soluzione è fare attività in modo più blando? Oppure mi consigliate di fare qualcos'altro? Grazie, Maurizio. E per aiutare Maurizio, non uno, bensì due professionisti, ci ha raggiunto il professor Piero Barbanti. Professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno. buongiorno a lei e agli ascoltatori, salve. Primario neurologo presso l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele di Roma. Professore, qua in studio con me ho il dottor Franco Confalonieri. Scusate che è qua che è felice e contento perché gli ha scritto il suo amico Andrea, l'amico della poltrona. Scusi, professor Barbanti, ma qua c'è una... noi abbiamo un amico che ci scrive e... prima era assolutamente sedentario, adesso ci scrive: mi avete strappato dalla poltrona e messo in canoa sul Po, faccio prima dirvi dove non ho dolori dopo l'allenamento, ma vi amo lo stesso. Rapidissimo, anche noi amiamo Andrea e questi dolori sono segno che le cose vanno bene, il muscolo sta rispondendo alle sollecitazioni, sta costruendosi, sta rinnovandosi e il dolore è legato a questa trasformazione progressiva dei muscoli. Tutto ok Andrea, continua a remare. Allora, invece professore, il nostro Maurizio ha un problema con il mal di testa, quindi un altro tipo di dolore. Proprio lei però, professore, recentemente ci ha parlato, abbiamo parlato di emicrania, ci ha detto che l'esercizio fisico è una buona misura preventiva. Evidentemente però per Maurizio questo non va bene. Allora mi chiedo, è Maurizio l'eccezione che conferma la regola oppure l'emicrania post attività fisica è uno dei 200 tipi e più di cefalea di cui noi spesso parliamo? Professor Barbanti. Ha ragione lei Nicoletta, ma ha ragione in realtà anche Andrea, che ha fornito in parte la spiegazione. Andrea ha parlato di sforzo fisico. Sì. L'esercizio fisico è assolutamente salvifico per un cervello emicranico, lo sforzo fisico no. Ricordo personalmente un atleta di salto triplo che, superato una certa soglia nell'allenamento, sviluppava l'emicrania. Questo è vero in particolare nella forma con aura, ma sì, è vero anche in misura inferiore nella forma senza aura. Questo è legato al fatto che il cervello emicranico è come un computer con una enormità di funzioni e la batteria è piuttosto poco capiente. E allora c'è senza dubbio da rivedere le modalità dell'allenamento. Quindi non un consiglio assolutamente, un parere assolutamente tranquillizzante del professor Barbanti per chi come Maurizio si ritrova a fare troppo sforzo e a pagarla con mal di testa. Bisogna imparare a modulare evidentemente l'impegno, professore. Sì, ci sono perlomeno tre aspetti da considerare. Sì. Alimentazione, idratazione e allenamento. Quando gioca lui a pallone, o meglio quando fa sforzo in palestra, alla fine di una giornata in cui ultimo passo magari dista 5-6 ore, in questo caso è fisiologico che succhiando tutte le energie residue, certo, entri in tilt la batteria, il mitocondrio in questo caso, del circuito neuronale preposto al dolore. L'idratazione è un altro elemento fondamentale, ove per idratazione si intende il bere, ma il bere anche con sale all'interno. E poi l'allenamento. L'emicranico tollera tutto purché sia fatto con gradualità. Si può scalare anche l'Everest, ma non dopo aver fatto una capatina in collina. Insomma, quindi tre cose assolutamente fondamentali. Grazie, professor Barbanti. Ci sentiamo presto. Buona giornata. Arrivederci a lei. Salve. E adesso noi invece andiamo ai nostri ascoltatori che ci chiamano da casa. Abbiamo Marco che ci chiama da Milano, 824 0024. Andiamo con una batteria di domande, domande e risposta. Dottor Confalonieri, lei è pronto? Ale, Marco, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione, bellissima. Grazie. Niente, io ho 15 anni, due ernie al disco. Sì. E niente, mi facevo la mia partita calcetto del martedì sera. Sì. Dopo la seconda volta che mi sono bloccato, ho deciso di smettere di giocare a calcetto e mi sto appassionando alla corsa. Sì. Voglio solo sapere se anche qua è uno sport che posso fare o è meglio che smetto anche di correre. Grazie, grazie Marco. Se no va a remare insieme ad Andrea, Marco. Dottor Confalonieri. No, allora, intanto bisogna capire l'entità di queste ernie. Credo che non siano ernie particolarmente grosse o comunque particolarmente prossimali al sistema nervoso e ai nervi, perché sennò sarebbe impossibile per Marco correre. Indubbiamente la corsa è già meglio del calcetto perché i movimenti sono controllati e non sono legati a situazioni non controllabili come nel calcetto, quindi i rischi si riducono, però non è lo sport migliore perché comunque fare? C'è una sollecitazione cronica della colonna, quindi andrebbero meglio per esempio la bicicletta piuttosto che il nuoto. Andiamo invece a sentire Martino, ci chiama dalla provincia di Taranto, 824 0024. Martino, benvenuto. Pronto? Buongiorno. Eccoci, buongiorno a lei. buongiorno, grazie. Grazie per l'opportunità. Posso esporre il mio piccolo problema? Sì, cerchi di mettere un po' in difficoltà il dottor Confalonieri. No, per carità. Niente, io ci ho corsa da un po' di anni, da circa una decina d'anni. Sì. Poi ho lasciato per un po' di tempo. L'ho ripresa da 2 anni, corsa, faccio 15-16 km per settimana, uscendo 2 volte. Mi è uscito da un annetto un po' di cervicalgia, una spondillosi mi sembra che l'abbiano identificata. Sì. Niente, volevo sapere se dipende dalla postura, dalle scarpe troppo dure, o se è qualcosa che comunque doveva uscirmi. Grazie. Bella Martino, che qualcosa insomma deve capitare. Ha dato 3 risposte, tutte e tre credibili. Ormai abbiamo ascoltatori preparati quasi più di noi. Diciamo di sì, c'era una predisposizione, questa spondilosi di cui parlava, a sviluppare un problema a livello della cervicale. Quindi non diciamo che doveva venire fuori, ma poteva venire fuori perché era predisposto. La postura, quindi l'atteggiamento del tronco e della testa durante la corsa, indubbiamente può favorirlo. In particolare però può favorire uno scorretto utilizzo delle spalle e delle braccia, quindi bisognerebbe valutare la tecnica di corsa e la capacità di rilasciare, di accompagnare la corsa con le spalle e con le braccia. Infine può essere favorita dal microtraumatismo ripetuto sul terreno, che può essere condizionato sia dal tipo di terreno su cui si corre, sia dal tipo di scarpe che si utilizzano. Per chi è restato, il consiglio di lettura. Quelli che corrono, un manuale per cominciare, per continuare, per migliorare, di Stefano Baldini. Questo è il titolo del libro di oggi, potete riceverlo a casa se siete molto veloci, siete il primo ascoltatore a raggiungere il nostro indirizzo di posta elettronica essere benessere@radio24.it. Dovete mettere il titolo del libro, il recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Ho una bella domandina per lei che arriva da Thomas da Bassano, è alto 1,81, pesa 78 kg, ci chiede per un leggero dolore del nervo sciatico dopo la mountain bike, calare di peso può ridurre il fastidio? No, direi che qui il problema non è nel calo di peso, ma quasi certamente è un problema legato a una scorretta posizione in bicicletta. Ecco, questo messaggio ci aiuta a mandare un messaggio importante. I dolori a livello di colonna piuttosto che a livello delle anche per chi inizia con il ciclismo sono dei motivi che più spesso obbligano a fermarsi e quasi sempre sono legati a una scorretta posizione in bicicletta, quindi basta andare da un esperto, farsi modificare la posizione e può continuare a mangiare tranquillamente che dovrebbe sparire la sciatica. Giuseppe ci chiama da Venezia, buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno, vi chiamo per questo problema. Io sono un podista amatore, 47 anni, che corre all'incirca 2 volte alla settimana. E ho fatto 15 giorni in montagna, ho corso praticamente tutti i giorni e l'ultimo giorno ho fatto un lavoro anche di 2 ore e mezza e mi sono trovato con una forte tendinite da non riuscire più a correre, proprio dolorante. E adesso io mi sono fermato da 2 mesi, sono a riposo. E diciamo che camminare adesso cammino, non sento nessun dolore, però al tatto toccando il tendine con le dita il dolore c'è ancora, anche perché camminando per Venezia, no, Giuseppe, un po' di allenamento su e giù dai ponti, no, siamo un po' fuori di Venezia, io sono in provincia di Venezia, ma un po' di però distante, no? Ecco, comunque no, diciamo ecco, e diciamo che camminando io non sento più dolore, però se si tocca sì. Sì, al tatto, diciamo, e il dolore al tendine si sente e purtroppo, ecco, questo mi... Questo è un po' quello, l'ombra, l'ombra della sua passione per Giuseppe, no? Sì, è un problema abbastanza frequente anche, diciamo che Giuseppe ha sicuramente esagerato approfittando delle vacanze con il carico. Probabilmente ha corso troppo, ha corso spesso anche in salita e questo ha provocato come... Dica anche qualcosa di giusto che ha fatto, povero Giuseppe. Fermarsi dopo, quando aveva il dolore, e non riprendere finché non è completamente sparita la sintomatologia. Bravo. Ha provocato una tendinopatia cronica, penso. Attualmente non c'è più dolore camminando, ma c'è dolore al contatto proprio perché è residuato una sorta di infiammazione cronica. E la cosa migliore da fare è riprendere gradualmente a correre, la cosa ancora migliore sarebbe riprendere con la corsa in acqua, perché in questo modo ritrovo una certa biomeccanica, ricomincio a utilizzare i muscoli in un certo modo, ma non sovraccarica il tendine. La prossima volta si ispiri a quanto detto anche da Baldini alla gradualità. Insomma, prima di muovervi, chiamateci. Esatto. 824 0024. Andiamo da Nuccio che ci... No, prima c'è Luigi da Lucca. Luigi, buongiorno. Le stavo facendo un torto. No. Luigi, grazie. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ci racconti. Grazie per l'opportunità. Niente, io anch'io sono un podista, anzi ero, perché da un anno praticamente ho dovuto chiudere con questa attività perché mi si presentava un discreto dolore al ginocchio sinistro. Sì. Ma questo dolore mi si presentava dopo la corsa e anche durante la giornata di camminate normali mi fa male questo ginocchio. Poi la sera cominciavo a correre e dopo pochi minuti scompariva. Nella corsa scompariva. E premetto che faccio uscite dai 12 ai 18 km 4 volte per settimana. Quindi, insomma, Luigi, non è un pivellino, come si dice. Dottor Confalonieri, rimettere Luigi? È difficile aiutarlo perché il ginocchio è complesso di per sé, non abbiamo abbastanza elementi per dargli una risposta precisa. Il consiglio che posso dare a Luigi, o in linea generale, è: prima di cominciare a correre, valutiamo la struttura della nostra gamba e la conformazione a livello del ginocchio. Quindi vediamo se la gamba è perfettamente dritta, se siamo di fronte a un ginocchio valgo, a un ginocchio varo, se c'è degli adeguati equilibri muscolari. Studiamo di conseguenza la scarpa più adatta e questo potrebbe consentirci di ridurre i problemi. La stessa cosa potrebbe essere fatta anche adesso per ripartire con la corsa senza che si ripresenti questo problema. Nuccio dalla provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno a voi. Io volevo fare una domanda, professore. Sì. A me succede spesso che quando vado, sono un amante della bicicletta, la mountain bike. Sì. Purtroppo per motivi di lavoro non vado più frequentemente. Nuccio, siamo quasi in chiusura, dovrebbe venire la domanda. Mi succede questo: vado a farmi un giro in bicicletta 10-30 km. Di contropartita non riesco a dormire bene la notte, non riesco a addormentarmi proprio. Sì, grazie. Scaricarmi e mi fa l'effetto contrario, non capisco cosa è come se la agitasse, insomma, non perde il sonno con l'attività, con la bici. Il è un altro Nuccio. Problema abbastanza frequente, in quanto l'attività sportiva libera una serie di neuromediatori, le endorfine, che comunque attivano lo stato di veglia e quindi rendono più difficile il sonno. C'è una risposta individuale anche da questo punto di vista. L'unico consiglio è ovviamente privilegiare l'attività fisica nelle prime ore della giornata. Se lui andrà in mountain bike al mattino nell'intervallo di mezzogiorno, avrà meno problemi a dormire che non andandoci dopo il lavoro. E noi salutiamo Alessandro Pellizzari che ci ha raggiunto per chiudere questa trasmissione con le buone notizie. Due tra quelle scelte dalla rubrica Buone notizie di Star Bene. Ciao Alessandro. Ciao Nicoletta. Due buone notizie, certo. una per i golosi e una per chi vuole smettere di fumare. Un invito? Perché certo, molti ce l'hanno fatta. Abbiamo 30 secondi. Allora, sono 2,5 milioni gli italiani che hanno smesso di fumare negli ultimi 5 anni e il trend è positivo anche per quest'anno perché ci sono stati 20 milioni di pacchetti in meno, quindi buona compagnia, approfittiamone. Mentre se, tornando un po' al discorso sportivo, ma al dolore in generale, se vi fate male o soffrite di emicrania, avete dolori articolati, provate a pensare al cibo più buono che conoscete. Moltissimi pensano al cioccolato, perché gli psicologi americani hanno dimostrato che riesce a lenire l'ansia e quindi il dolore associato nel momento in cui lo proviamo. Attenzione però al cioccolato, pensatelo e non mangiatelo se soffrite di emicrania, perché come tu avrai detto molte volte può dare dei problemi. È quello un po' che ci dicevano le nostre mamme quando ci portavano magari dal dentista oppure dovevamo fare qualche cosa di difficile, dai che poi ti prendo un bel gelato, andiamo a mangiarci la torta, attivava dei pensieri positivi. Grazie Alessandro Pellizzari di Star Bene, buona giornata, ti anche lascio voi alla redazione, dottor Confalonieri, le do un appuntamento. Scegliere uno di quei 2 o 3 film bellissimi usciti ultimamente che erano centrati sul cioccolato, ce lo guardiamo e recuperiamo meglio l'allenamento. Fantastico. Dottor Confalonieri, l'aspetto per il prossimo venerdì. A risentirci, grazie a tutti. E invece noi ci sentiamo domani per Questa casa non è un albergo, poi lunedì con la salute. Insomma, buongiorno, buona giornata, un saluto da Nicoletta Carbone.